Così l'autunno è già tra i rami, il vento batte sulle porte. Sarà vero che mi ami, ma l'amore è così strano, certe volte non è come immaginiamo. C'è qualcosa nei tuoi occhi che non mi fa più dormire, mentre il cielo del mattino mi crolla addosso, lasciando un segno del tempo che passa e che cambia con te. E cambia l'anima dentro me. Giro, giro, sento i tuoi passi, solo i tuoi passi, e tremo, tremo su questa strada che porta lontano, e tu non ci sei. Quanto ancora dovrò stare qui seduto ad aspettare, le mani a reggermi la fronte, e poi sentirmi più solo ogni volta che parlo di te, così diversa ed uguale a me, amica e compagna, tu questo sei sempre per me. Giro, giro, camminerò e ti cercherò finché avrò respiro, perché da solo non vivo, stanotte ho bisogno di te. Questo sogno è impossibile. Giro, giro, sento i tuoi passi, solo i tuoi passi, tremo, tremo, mentre la notte ora scende, nel sogno ritorni da me. Seguo i tuoi passi, solamente i tuoi passi, seguo l'anima, seguo i tuoi passi, solamente i tuoi passi, seguo l'anima.